E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre al vostro Jean-Luc. Ritornano gli ospiti in studio, sempre dal Veronese, una rock band che ci presenterà il loro primo disco. La parola a voi, ragazzi. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rock Legends, siamo i Critical Project. Siamo qua per presentare il nostro primo album e siamo formati rispettivamente dalla voce Cristiano, Patch alla chitarra, Marz al basso, Alex Junior alla batteria. Abbiamo partorito la prima bambina. Che bella bambina. E che bambina. E con i Critical Project, una prima parte dedicata al rock inglese dei primi anni 70. Primo brano era di Badfinger, che dal disco No Dice del 1970 ci ha fatto ascoltare il brano No Matter What. I Badfinger hanno tra i primi codificato il suono power pop imitato da altre band fino ad oggi. Che ne pensate? Sì, sono stati tra i primi a averlo praticamente ben definito, anche se prima potevamo trovare una traccia del power pop nei Beatles o nei Beach Boys, e siamo arrivati fino ai giorni nostri passando agli anni 70 con My Sharona, alla fine degli anni 90 che si è incontaminato con l'alternative rock fino ad arrivare ai giorni nostri praticamente. Comunque sono stati i primi a averlo ben definito proprio. Tra l'altro erano i The Ives all'inizio. Esatto. Si chiamavano The Ives, sì, esatto. È vero. I Critical Project sono assieme dal 2007, quindi grosso modo da 3 anni. Cosa avete fatto finora e perché avete scelto questo nome? Qua chi risponde? Dai, rispondi tu, tanto l'hai inventato tu il nome. Infatti. No, praticamente noi siamo assieme da 3 anni praticamente. Veniamo, ognuno dalle nostre esperienze musicali differenti, chi dall'hip hop, chi dal rock anglosassone, chi dal metal. Ci siamo fusi e abbiamo trovato questo nuovo sound e l'abbiamo chiamato Critical Project, un progetto critico. Si continua con i Faces, supergruppo composto dagli ex Small Faces Ronnie Lane, Ian McLagan e Kenny Jones, e da Rod Stewart e Ron Wood. Sono noti per le loro esibizioni live e per alcuni dei loro dischi da Sound Hard Blues. Dal disco A Not Is As Good As Wing to a Blind Horse del 1971 il brano Stay With Me. Thank you. Conoscendo il Rod Stewart di oggi, verrebbe sempre da rimpiangerlo in questa storica band. Cosa ne dite? Beh, sicuramente coi Faces Rod Stewart ha raggiunto la vetta della sua parabola artistica ed è riuscito a imporsi sul mercato discografico anche da solista, soprattutto dopo lo scioglimento della band. Peccato che andando avanti negli anni l'impatto è stato minore, però. Sì, molto più commerciale. Si è spostato verso il pop. Esatto. Anche se rimpiangeva il rock in alcune canzoni. No, ma comunque sti pezzi appena sentito è una cosa, cioè è un peccato che sia andato perso questo tipo di sound, queste chitarre, cioè c'è tanta malinconia. Sì. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e cosa ne pensa il vostro pubblico? Imprevedibile. Cioè, può succedere di tutto. No, sono andata abbastanza bene. Ogni tanto abbiamo qualche problema col cantante che dimentica i pezzi. No, dimentica pezzi di testo. Può succedere, diciamo. Finché non mi danno un gobo davanti. C'è da raccontare un bel aneddoto, secondo me. Una volta eravamo a una rassegna di musica e dovevamo presentare un pezzo molto tranquillo. Solo che a metà del pezzo, davanti a tutta la platea, ci siamo stufati e abbiamo iniziato da capo un altro pezzo completamente diverso, molto più lanciato. Molto più lanciato. E c'era l'organizzatore da dietro le quinte che si sbracciava per dirci basta, e noi abbiamo fatto tutto il pezzo fino in fondo ed è stato il delirio. Hanno cercato in tutti i modi di bloccarci, ma non ce l'hanno fatta. L'unica cosa doveva tirarci via la corrente. Esatto. Per chiudere questa parte, un po' di glam rock inglese con Mark Bolan e T-Rex, storica figura del genere, prematuramente scomparso nel 1977. La disco Tanks del 1973, il brano 20th Century Boy. Noi vi aspettiamo per la seconda parte.